Storie de noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari ed Antonio Ceccato. Salutiamo i nostri ascoltatori da parte di Gesi e di Antonio e salutiamo Antonio anche il maggio che è apparso. Sì, naturalmente qui tempus fugit come sempre. Ma maggio dovrebbe essere il miglior mese dell'anno, ma dicono. Ritengo, sì, cerchiamo di farlo tale, diciamo, per quanto ci concerne. Ecco. Dando un cordiale benvenuto alle amiche e agli amici di Blu Radio Veneto, che invitiamo alla nostra consueta passeggiata virtuale tra sentimenti, emozioni e ricordi sulle frequenze di 88 e 70 e 94 e 60 in FM. Per chi lo desidera segnaliamo inoltre che la possibilità di seguire il programma in streaming o di effettuare il download dal sito di bluradioveneto.it. Con un saluto cordiale al nostro regista. Ah, quello non manca mai. Così i nostri ascoltatori possono scaricare le trasmissioni e tenerle da conto, se piacciono, no? Beh, noi lo speriamo. Stasera avremo con noi il signor Donato Marinello, ma sarà un ospite virtuale perché abita verso Ferrara, quindi Rovigo, e non può essere presente, e ci parlerà dell'immigrazione. Però prima di avere al telefono il nostro Marinello, ci ascoltiamo una canzone che a me piace tantissimo, è cantata da Beniamino Gigli e si intitola Dimmi tu primavera. Di nuovo in studio e fra poco avremo con noi il signor Donato Marinello. Signor Marinello, buonasera. Buonasera. Buonasera a voi. Bentornato fra noi. Anch'io sono contento di risentirvi. Ecco. Allora, no, oggi lei ci parlerà dell'immigrazione, vero? Sì, immigrazione. Immigrazione, sì. Ecco, immigrazione, no? Sono due, appunto, sì. Due aspetti di porre il problema, insomma, ecco, no? Sì. Volevo mettere, diciamo, parlare anzitutto di quanto è accaduto a queste mie zie che emigrarono in America negli anni 20, no? Perché chiaramente di lavoro in Italia ce n'era molto poco e perché, ecco, se vogliamo un attimino analizzare anche le radici storiche di questo flusso migratorio, no? Negli anni 20 verso le Americhe, ecco, possiamo, come dire, individuarlo un pochino nelle speranze disattese di tanti giovani che partirono per il fronte durante la Prima Guerra Mondiale con la promessa che poi avrebbero, diciamo, di ritorno, ovviamente i sopravvissuti, di ritorno dalla guerra un pezzettino di terra tutta propria da coltivare. Invece, diciamo, le speranze di questi nostri combattenti furono, come dire, disattese, ecco, no? Quindi c'è una motivazione di tipo storico, no? Ecco, per cui continuò a, come dire, ad esserci un po', cioè, il fenomeno del latifundismo continuò ovviamente ad imporsi come realtà e ovviamente con relativo bracciantato, cioè con tutti questi qua che non avevano terra propria e offrivano le proprie braccia per andare a lavorare nei campi. Chiaramente a questo punto tanti preferirono a questo punto imbarcarsi verso le Americhe con la speranza di trovare là una condizione migliore di vita, ecco. Quindi mi sembra di aver detto già qualche cosa un po' come mai, un po' le cause, chiamiamole un po' remote, di questa voglia di emigrare, no? Avete qualche altra domanda? Sì, da porre? Ecco, io le chiedevo, come poi si saranno trovati questi emigranti nelle nuove terre, in America, in Brasile? Ecco, no, io volevo, ecco, precisare anche una cosa, che per le campagne giravano agenti mandati addirittura dalle agenzie americane per reclutare, no? Magari tante famiglie desiderose di espatriare per trovare altrove condizioni migliori di vita, ecco, e questi agenti magari anche privi di scrupoli, nel senso che magari si facevano dare, come adesso succede con gli scafisti. Gli scafisti, eccetera, che impongono, diciamo, a questi poveri cristi, no? Un prezzo da pagare per poter essere imbarcati, e quindi anche allora con promesse mirabolanti che poi voi avete letto il racconto, no, lo leggerete dopo, sì, no? Sì, dobbiamo leggere, io comunque poi vi renderete conto poi di come queste mie zie, anzi una zia, perché una andò nel Mato Grosso e poi non si sentì più nulla, ecco, come furono trattati poi, perché loro arrivarono lì pieni di belle speranze con questi agenti che gli promisero monti e mari, e poi invece si ritrovarono a combattere una diversa realtà, insomma, no? Sì, non è che trovassero posto subito anche lì in Brasile quando emigravano. No, non è che trovavano posto subito, no? Loro andavano perché chiaramente, indubbiamente, il Brasile, come l'Argentina e gli altri paesi sudamericani, erano paesi in fase, diciamo, di espansione dal punto di vista economico. Avevano bisogno di tanta manodopera, no? Erano terre pressoché vergini, avevano bisogno. Quindi loro andavano lì, ecco, sperando di avere anche un pezzo di terreno proprio, no? Ecco, negato in patria, ecco, e quindi partivano con queste, con l'animo, diciamo, pieno di tante belle speranze. Di speranze, sì. Ma ecco, e poi lo trovavano il pezzo di terra, riuscivano? Allora, ecco, e quando sono arrivati lì, e poi voi, diciamo, avrete, diciamo, la possibilità di rendervene conto leggendo il racconto, incontrarono invece una cruda realtà, nel senso che furono presi, portati in posti sconosciuti all'interno del Brasile, lontano da San Paolo, dove arrivarono le mie zie, no? Ecco, e costretti a lavorare poi in una situazione di semi-schiavitù, insomma, no? Ecco, poi insomma, in qualche modo riuscirono poi in modo rocambolesco a ritornare a San Paolo, dove via via pian pianino riuscirono a crearsi un futuro di vita, insomma, ecco. Ma le difficoltà che incontrarono furono veramente enormi, ecco, insomma, no? Quindi logicamente, certo. Come qui del resto, non sì, tutti sì, certo, quelli che arrivano. Sì, certo. Ecco, ecco, una situazione, ecco, io volevo dire, mi piacerebbe aprire una parentesi adesso sulla realtà che io e la mia compagna abbiamo vissuto, la Dana la conosce, no? Abbiamo vissuto adesso recentemente nel nostro viaggio a Dubai, dove lavora sua figlia, ecco, negli Emirati Arabi, dove anche lì esiste una situazione, come dire, di caporalato, no? Nel senso che, diciamo... cosa fanno queste le agenzie? Reclutano magari personale tipo somali, pakistani, indiani, cioè tutti degli stati che gravitano intorno agli Emirati Arabi, li reclutano e li fanno arrivare a Dubai per lavori di tipo manuale, no? Però cosa succede? Che gli Emirati, cioè gli sceicchi, pagano le agenzie, gli danno, non so, cosa vi serve per, non so, realizzare un grattacielo, mettiamo, non so, ecco. Allora le agenzie prendono i soldi, però pagano però una miseria, esatto. E questi qua che arrivano lì anche loro pieni di belle speranze, gli ritirano anche il passaporto in modo che non possono ritornare, perché se vedono che anche lì lavorano e guadagnano pochissimo, sono tentati poi di ritornare in patria, no? E ritirano il passaporto in modo che anche lì sono ridotti in una situazione di semischiavitù. Uno schiavismo moderno, diciamo. Uno schiavismo di tipo moderno. Quindi anche lì, ecco, si ritrovarono anche le mie zie poi con relativi mariti, no? In una situazione del genere, insomma. Quindi in realtà è... un disastro, non è cambiato granché rispetto a una volta. Non è cambiato granché perché... c'è il famoso detto homo omni lupus, no? Cioè, se uno può fare il prepotente, come si chiama? Gli è consentito di farlo, naturalmente, delle leggi e compagnia. Gli è consentito di farlo e negli Emirati Arabi, purtroppo, c'è una monarchia assoluta, sì. Illuminata finché vuoi. Certo, ma assoluta. Perché hanno vinto anche l'Expo adesso per il 2020, no? Ecco, però chiaramente i sindacati non esistono. Non c'è nessuna tutela per i lavoratori, per cui queste agenzie fanno un po' il bello e il cattivo tempo. Quindi ecco, se possono spelare, dissanguare questi qua, ecco, e lo fanno, non gliene frega niente, insomma, la vita umana... Non hanno scrupoli, diciamo. Non hanno scrupoli, certamente, sì. Bene, allora ci ascoltiamo una canzone, la seconda canzone in programma, che è April Love, cantata da Pat Boone. April love is for the very young. Every star's a wishing star that shines for you. Seven wonders, one little kiss can tell you this is true. Sometimes an April day will suddenly bring showers, rain to grow the flowers for her first bloom. But April love can slip right through your fingers. So if she's the one, don't let her run away. Some Sometimes an April day will suddenly bring showers, rain to grow the flowers for her first bouquet. Eccoci di nuovo in studio. Adesso, signor Marinello, leggiamo un racconto dei suoi, lei così sentirà. Certo. Allora, leggiamo intanto Vado in America. Sì, perfetto. Sì. La crisi e la miseria seguiti alla fine della Prima Guerra Mondiale spinsero molte famiglie italiane a tentare la fortuna oltreoceano. Fra le varie storie di migranti tramandateci da padre in figlio, ce n'è una che ha dell'incredibile. Arturo, un giovane trentino dal carattere irrequieto e vogognante, si era ridotto a fare il contadino come bracciante, dopo aver sperperato nel gioco la ricca eredità lasciatagli dal padre. A mano che passavano i giorni, crescevano in lui la svogliatezza e l'indifferenza per il lavoro agricolo. Arrivava spesso in ritardo o se ne tornava prima nel tempo, adducendo scuse risibili. C'era il rischio che il padrone lo licenziasse, gettando lui e la sua famiglia, due bambini ancora piccoli, nella miseria più nera. Un giorno al fratello con cui lavorava disse: «Basta, vado in America», e piantato il badile se ne andò. «Vai pure», disse il fratello, non dando alcun peso alle sue parole. A mezzogiorno la moglie, come era sua abitudine, portò il pranzo ai due fratelli. Non vedendo Arturo, chiese al cognato dove fosse il marito. «Ma sarà andato a fare i suoi bisogni». Passarono i minuti senza che Arturo si rifacesse vivo. A quel punto la moglie incominciò ad inquietarsi. Si posero alla sua ricerca, lo chiamarono a gran voce, esplorarono la campagna intorno, ma senza alcun risultato. «Ha detto», aggiunse a questo punto il cognato, «che voleva partire per l'America». A quelle parole la moglie si incupì. Sapeva che il marito non era nuovo a certi colpi di testa. L'idea quindi che se ne fosse andato addirittura in America non era poi del tutto infondata. Cadde nella disperazione. Senza più il sostegno del marito, la vita le apparve di colpo buia ed incerta. Grazie all'aiuto dei paesani riuscì comunque a riprendersi, trovando anche uno straccio di lavoro da cui ricavare lo stretto necessario per il mantenimento dei suoi piccoli. Passarono settimane, mesi ed anni senza che il marito ricomparisse. La speranza di rivederlo si affievolì in lei, al punto tale da pensare seriamente di legarsi ad un altro uomo. Una notte sentì uno che si infilava nel letto accanto a lei. «Sono tornato», disse il marito. «Che bello! Dopo 2 anni», fu la risposta ironica della moglie. Sentì montarle un nodo alla gola, ma si controllò per non scoppiare a piangere. Il suo cuore aveva già sofferto e sanguinato copiosamente per tutte le notti in cui era rimasta sveglia ad aspettare il rumore di una chiave nella toppa. Immaginava lui che entrava per poi coricarsi accanto a lei, senza dire una parola. L'indomani si sarebbero svegliati insieme come se quell'incubo non fosse mai esistito, come se lui non fosse mai partito, come se fosse passato un giorno e non anni, mesi, giorni ed ore. «Non mi chiedi dove sono stato?» «Non mi interessa», rispose lapidaria lei. «So soltanto che mi sono dovuta sobbarcare un bel po' di sacrifici mentre tu te ne sei andato a spasso per il mondo». Una cortina di silenzio greve calò fra i due. La mattina, nello svegliarsi, Arturo non trovò la moglie accanto a sé. Pensò, sarà di là che prepara la colazione. Si alzò, andò in cucina e sul tavolo c'era un foglio con su scritto «Sono partita per l'America». Arturo afferrò il foglio, rileggendo come inebetito il messaggio lasciato. «Sarà uno scherzo», pensò. Si precipitò fuori dalla porta di casa, fece un giro intorno, ma della moglie nessuna traccia. «Vuoi vedere che mi ha imitato?» Con questa idea atroce in testa, rientrò in casa. Si avvicinò quatto quatto ai bimbi che dormivano ancora nei loro letti a castello. «E se questi si svegliano, che cosa faccio?» Ritornò in cucina, convinto di aver avuto un'allucinazione. No, la moglie proprio non c'era. Ad un tratto si udì la voce di un figlio che chiamava la mamma. Il terrore lo assalì. Proprio in quell'istante, sulla porta della camera da letto, comparve la moglie ancora in vestaglia. «Che rimbambito! Stai tranquillo!» disse lei fissandolo. «Non sono così stupida ed incosciente da piantare due bambini come hai fatto tu. Pensa», proseguì la donna guardandolo duramente, «è bastato lasciarti qui da solo con loro per pochi minuti che sei entrato subito nel panico. Pensa a me, per 2 anni!» Era fatta così, leggera anche nel rancore. Arturo apprese la lezione una volta per sempre. Si rimboccò seriamente le maniche e riprese a coltivare la terra dove di lavoro, causa i flussi migratori, se n'era creato anche fin troppo. Guadagnò al punto da mettere in piedi un'azienda agricola autonoma. Si rese conto che per dare dignità e sicurezza alla propria famiglia non occorre superare monti e mari. L'America è molto più vicina di quanto pensiamo. Basta avere testa e voglia di lavorare. Bene. Ecco, signor Marinello, cosa le ha ispirato, come mai ha scritto questo racconto? Ma guardi, dunque, frugando fra le carte qui di Crosano, che è una frazione vicina a Brentonico, dove adesso io mi trovo a Brentonico in questo momento, sì. No? Ecco, e niente, diciamo, ho letto appunto fra le varie storie quello che è successo a questi nostri emigranti. Ecco, questa è una storia che, giustamente, come ho detto nel racconto, ha dell'incredibile, no? Sì. Ecco, mi ha incuriosito al punto tale da mettermi lì di busto buono e a scrivere appunto un racconto, una storia su questo fatto. Ecco, quindi mi ha incuriosito questo. Ma qui quello che mi ha, diciamo, incuriosito, analizzando un po' meglio la situazione, non è di uno che... uno spiantato, un poveraccio che doveva solo offrire le proprie braccia, era veramente figlio di, mi sono informato anche presso, di qualcuno che si era riuscito a farsi una piccola fortuna lavorando sodo, solo che lui chiaramente non aveva la stessa pasta del pane, no? Del padre. Dopo aver dilapidato tutte le sue cose, si è ritrovato anche lui a dover fare solo il bracciante, e quindi dato che non aveva la voglia, la passione per il lavoro dei campi come suo padre, a quel punto lui ha detto parto, me ne vado. Ecco, proprio da autentico irresponsabile, ecco, e così. E poi questo è un fatto realmente accaduto, no? Ah, proprio. E poi accaduto. Dopo chiaramente l'ho un po' romanzato, ecco. Beh, certo. Insomma, ecco, alla fine, con la conclusione che anche voi avete letto poi alla fine, insomma. Ecco, sì, appunto. Sì. Beh, adesso Antonio legge anche l'altro, per piacere. D'accordo. Viaggio a San Paolo. Era il 1 gennaio 2001, una mattina tersa e luminosa, come può esserla ai tropici, quando l'aereo in cui viaggiavamo io ed Anna cominciò a sorvolare una distesa infinita di case e di grattacieli, per poi atterrare una decina di minuti dopo all'aeroporto di San Paolo. Fu allora che l'emozione mi prese alla gola. Stavo per conoscere i discendenti delle mie zie Genoveffa e Concetta, sorelle di mio padre, emigrate in Brasile negli anni 20. Fuori, fra i vari cartelli mostrati dalle persone in attesa, ce n'era una del cognome e nome inequivocabili. Donato Marinello. Lo sosteneva un uomo anziano, magrolino, con baffetti, i capelli radi e bianchi, circondato da un folto gruppo di persone, per lo più giovani. Ricordo quei momenti come fossero ieri, mentre con Dana mi dirigevo verso di loro con il cuore che mi sobbalzava nel petto. Non ci fu bisogno di convenevoli e presentazioni, perché ci ritrovammo di colpo abbracciati gli uni agli altri. C'era in quell'esplosione di gioia collettiva tutta l'attesa, la curiosità, la voglia di colmare un vuoto che, tranne qualche scarna notizia ricevuta nei primi anni dalla loro partenza, era durato 80 anni. Era arrivato finalmente il momento, da sempre sognato, di scoprire e rinsaldare le nostre comuni radici. I giorni che seguirono furono pieni di incontri, di visite alla città, di storie dei risvolti spesso drammatici. Venimmo così a sapere che cosa ne era stato esattamente delle mie zie una volta giunte a San Paolo, dopo settimane di navigazione. A raccontarcelo è Mamante Maretti, l'uomo che reggeva il cartello dell'aeroporto. Arrivate a San Paolo, le zie furono accompagnate inizialmente insieme a molte altre famiglie all'interno di un grande fabbricato, divenuto in seguito il Museo dell'Emigrante. Dopo qualche giorno vennero caricate su dei camion che le portarono lontano da San Paolo. Di Concetta, finita chissà dove, si perderanno per sempre le tracce. Genoveffa e il marito invece furono utilizzati, o meglio sfruttati, insieme a molti altri come braccianti, in una fazenda di piante da caffè. Si accorsero ben presto di essere finiti in un luogo per schiavi, costretti a vivere in una baracca e a lavorare dall'alba al tramonto con le guardie armate che li controllavano a vista. Genoveffa e il marito non riuscirono a trovare neppure più un briciolo di tempo per sé e per le loro due figliolette, lasciate per lo più da sole, non essendoci un centro custodia per i bambini. Ciò costò alla vita ad Angelina, la più piccola, morsa da un cobra. Onde evitare a Teresa, l'altra bimba, la medesima sorte, incominciarono a studiare un piano per scappare. Una notte riuscirono a eludere la vigilanza e a raggiungere in modo rocambolesco San Paolo. Con un po' di fortuna trovarono un alloggio e uno straccio di lavoro, quantomeno per sopravvivere. Genoveffa svolse inizialmente piccole attività, mentre il marito si inserì in un'impresa edile come muratore. Tutto sembrava procedere per il meglio, quando un brutto giorno il marito cadde da un'impalcatura, riportando fratture ad una gamba che lo resero inabile al lavoro. Le disgrazie però non fermarono i nostri due parenti, che con i soldi risarciti per l'incidente riuscirono non solo a sbarcare il lunario, ma ad aiutare pure Teresa negli studi come infermiera. È durante il mio ricovero in ospedale, mi fa notare Mamante, che ho conosciuto tua cugina. Purtroppo se n'è andata da più di un anno senza che abbia avuto il piacere di conoscervi. Mamante è il patriarca indiscusso di un variegato stuolo di figlie e nipoti, un uomo dal fisico minuto che campa con mezzo stomaco, ma dotato di una tempra eccezionale, uno che si è fatto da sé studiando e lavorando sodo. Quando l'abbiamo conosciuto era ancora in piena frenetica attività. Nonostante gli 80 anni ben portati, continuava a spostarsi in caso di bisogno fra i suoi tre figli, uno dei quali lontana da San Paolo 400 chilometri. Due sono sposati con figli, la terza, Anna Maria, vive con il padre. Di lei il cugino mi confidava con un pizzico di rammarico. Ea me è rimasta solo Ea da maridare, quasi a volersi dolere del fatto di non essere riuscito a completare l'opera. Il dialetto veneto lo parla ancora bene, avendo assimilato da bambino in casa dei suoi, emigrati da Padova. Mamante è uno capace di imprese pazzesche, come quando un paio di anni prima del nostro arrivo aveva preso l'aereo per l'Italia con un amico brasiliano che lui ha migrato. Vi rimasero per qualche giorno, ognuno alla ricerca dei propri avi, viaggiando e dormendo di notte in treno pur di guadagnare tempo nelle ricerche. Una missione la loro forse non del tutto gradita, chi fra i parenti rintracciati temeva che, dietro semplici visiti di cortesia, si celassero rivendicazioni di eredità perdute. Questo è solo uno dei tanti episodi che danno un'idea della vitalità di quest'uomo. Un giorno, mentre io e Dana viaggiavamo con lui nella metropolitana di San Paolo, rimanemmo visibilmente colpiti dalla sua capacità di resistenza. Per l'intero percorso, quindi per chilometri e chilometri, rimase in piedi, nonostante i ripetuti inviti a sedersi. «Perché non ne approfitti?» gli chiedevo. «A me è il mio posto, io dago ai giovani», rispondeva lui, non senza ironia. Naturalmente questo suo comportamento finì per penalizzare anche me e Dana, costretti il nostro malgrado a far posto ai giovinotti. Per le vie di San Paolo e di Rio de Janeiro era lui la nostra guardia del corpo. Camminava sempre dietro a noi, quasi a volerci coprire le spalle dalle cosiddette bande dei Meninos de Rua. Un paio d'anni dopo il nostro viaggio i parenti brasiliani hanno ricambiato la visita. Gli abbiamo fatto visitare Venezia, Firenze e le Cinque Terre. Da allora non abbiamo mai più perso i contatti. Stanno tutti bene, compreso Mamante che negli anni a seguire ha tentato di rifare il viaggio in Italia da solo. I cugini però si sono sempre opposti, nonostante lui abbia più volte tentato di convincerli con questo ragionamento. In un viaggio in aereo non ci sono incroci né pericolose strade da attraversare, e poi, quando arrivo, trovo già Donato che mi viene a prendere. Ora Mamante di anni ne ha 95, ma si assicurano è ancora piuttosto lucido di mente. Mi piacerebbe essere con lui nella metropolitana di San Paolo per sentirlo dire: mi è il mio posto, avio dago ai giovani. Ma è simpatico sta Vidal. Sì. È bello, veramente. Personaggi di una volta, diciamo. Sì, veramente. Nel pezzo forte di tutto il mio parentato lì, che cioè è rimasto vivo, giovane, attivo. Adesso chiaramente, adesso quando l'ho sentito ultimamente, si sentiva che non era più nella testa, Bene, 95 anni chiaramente, no? Però è come sempre il loro, come dire, punto di riferimento, circondato dal loro affetto, dal loro amore, no? Quindi insomma rappresenta un pezzo di storia. Di storia, certo, cioè, certo. Decisamente. Beh, adesso ci fermiamo un momento, signor Marinello, e ci ascoltiamo l'Ave Maria dell'Emigrante, cantata da Luciano Taioli. Una strada dietro me ho lasciato ormai, un campo, una casa ed il mio paese. Tanta gente passa e mi saluta mentre mi allontano, e mi prende ancor per mano la malinconia. Dalla piazza sento un'Ave Maria e i bambini che giocano insieme. Ave Maria, Ave Maria, mille voci verdi, la chiesa, le strade e di alberi in fiore. Non so proprio come mai è finita così, e pensando al mio paese sentirò tanta nostalgia. Dalla piazza sento un'Ave Maria in Ed eccoci di nuovo in studio con il nostro ospite al quale lasciamo la parola. Sì. Le è piaciuta, signor Marinello, questa, questa Ave Maria? Sì, sì, mi è piaciuta moltissima e poi mi ricorda anche un po' la, anche la mamma, che la Luciano Taglioli, Claudio Villa e altri cantanti. Che erano i cantanti dei nostri genitori, vero? I nostri genitori, li ascoltava lì. A volte, sì. Quando sentiva Claudio Villa scappava fuori dalla porta, perché questo nella, nella conclusione, nel, nell'acuto finale, non lo smetteva più e lei dice: questo si soffoca. erano tempi, c'erano delle belle primavere luminose, belle, belle, belle. Certo, certo. Vabbè. Sì, sì, sì. Allora, proseguiamo con il suo discorso, signor Marinello. No, ecco, volevo dire, precisare una cosa, che un po' come un po' tutto, diciamo, la, l'America meridionale, no? Brasile, Argentina, eccetera. Ecco, quello che mi ha colpito, ad esempio, perché è una situazione che si può verificare anche in Argentina, in Perù, eccetera, soprattutto in Argentina, ma anche in Brasile, è che tante delle case, fabbriche, costruzioni varie, eccetera, e sono opera degli italiani, cioè l'immigrazione poi ha, ha avuto questo risultato, che si sono insediati lì, sono diventati brasiliani a tutti gli effetti, parlando la lingua del luogo e assimilando ovviamente la cultura, però portando chiaramente lì la nostra, come dire, la nostra cultura, la nostra genialità, la nostra ingegnosità e tutto. Ecco, e l'esempio tipico, proprio io ce l'ho davanti, l'ho avuto davanti ai miei occhi, con questo mamante, mio cugino acquisito, che si è fatto, come dicevo nel racconto, si è fatto da solo e poi lui si è dedicato ai suoi figli anima e corpo, nel senso che, tranne l'ultima che purtroppo gli è rimasto da maridare, no? Ecco, sì, però anche lei ha studiato, è diventata ragioniera, si è inserita in una banca. Ecco, un'altra si è laureata, è diventata insegnato nelle scuole superiori in inglese, e un altro anche lui è perito, eccetera, ma tutti lui li ha fatti studiare, ecco, e a tutti ha dato e ha offerto il suo supporto di esperienze, di idee, di tutto, ecco, in modo che insomma potessero, diciamo, vivere in modo bello, dignitoso, giustamente, ecco, sì. Quindi, ecco, quindi una persona veramente deliziosa, ecco, proprio è così. Poi anche vi ha anche fatto un pochettino sorridere il fatto che lui, nonostante il suo fisico minuto, no, proprio sì o no, gli avreste dato un soldo per il suo fisico, l'autorevolezza lui, che emanava, appunto. Sì, però lui ci faceva addirittura da guardia del corpo, lui ci controllava, vigilava, cioè come ha fatto con i suoi figli, ecco, proprio. Io mi ricordo quando una volta c'era un problema lì nella casa dell'Anna Maria, l'unica rimasta da maridare, perché noi abbiamo alloggiato poi dalla Anna Maria, dove lui vive con la figlia rimasta da maridare, no? E si è calato lì in una, non so dove, nel cantina, per sistemare la caldaia, come se fosse, no, un ragazzino. Un ragazzino. Quindi ecco, quindi è stata una bella esperienza quella lì. Lo spirito proprio, insomma. Sì, sì, spirito, sì, sì. Lei è stato in Brasile? Appunto, sono stato in Brasile. Sì, ma dico, tanto tempo? Sono stato in Brasile nel 2000. Io mi ricordo, siamo arrivati, mi ricordo che l'ultimo dell'anno l'abbiamo passato all'aeroporto di Madrid e poi abbiamo proseguito e siamo arrivati giusto la mattina del 2001. Del Capodanno. Avete fatto Capodanno? Capodanno l'abbiamo fatto lì da loro, no? Ecco, dove ci siamo cibati di tanta frutta locale esotica, ecco, addirittura un frutto che si raccoglie direttamente dall'albero, no? Dal tronco dell'albero. Cioè il tronco si chiama saboticava, un nome così strano, no? Ecco. Ecco, per cui se tu tocchi però nel raccogliere il frutto, tocchi anche il tronco, anche, devi stare attento, proprio devi, ecco, lì non cresce più, no? C'è un albero molto, molto strano, insomma, fatto così. Cioè, se tu tocchi l'albero non cresce più il frutto. Non cresce più il frutto, non cresce più, ecco, per cui, ecco, e niente. Ma allora, poi, dica. Ma allora, quelli che quelli che raccolgono i frutti devono pur toccare. Devono diciamo fare molta attenzione nella raccolta di questi frutti che crescono sul tronco dell'albero. Cioè, perché è così, devono prendere il frutto senza toccare la corteccia dell'albero. E che sapore ha? Che sapore ha sto frutto? È un sapore un po' come i frutti tipici della, in questo momento mi sfugge, degli esotici che ci sono lì, ai tropici, no? Come si chiama, Danna? È un tipo di ciliegia. Ah, un tipo di ciliegia, ho capito. È un tipo di ciliegia, sì, ecco, così. Ma mi dica, questi emigranti sentono la nostalgia dell'Italia o sì, ormai si sono... Loro, chiaramente sì, perché dopo lui, Mamante soprattutto, dopo il nostro viaggio lì a San Paolo, un paio di anni dopo li abbiamo come racconto poi nel racconto, ha voluto farci ricambiare la vista ed è venuto a trovarci, perché loro comunque il richiamo delle loro origini lo sentono, come noi abbiamo desiderato tanto, come dire, sono stato l'unico di tutta la mia famiglia in realtà, no? Perché mio padre con tutti i 7 figli, io l'ultimo, no? Non avevo il tempo di mettersi lì a fare le ricerche, di andare, partire, andare. Sì. Però dopo, incoraggiato anche da una mia cugina di Mirandola, che è una parte dei fratelli di mio padre, si trasferì in provincia di Modena, sono andato a trovarli questi miei parenti. In che modo? Allora lì è stata fatta... hanno fatto una ricerca, cioè noi, io ho scritto al consolato diciamo italiano a San Paolo, il quale ha fatto una ricerca, ecco, fra i vari Marinello presenti lì a San Paolo, e ha riscontrato che c'erano appunto questi miei discendenti, no, da un unico ceppo, no, Balbo Angela e Antonio Marinello, che sono i miei nonni. No? Sì. E quindi da questo ho dedotto che lì c'erano questi miei cugini che anche loro chissà da decenni aspettavano un cenno, un qualche cosa, un segnale, no? Che è arrivato, e io e Danna siamo partiti, siamo andati a trovarli. Quindi voi provate a immaginarvi, che bella esperienza, straordinaria, straordinaria, una cosa pazzesca, insomma, no? Quindi è stata una cosa così, insomma. Bene. Abbiamo scoperto un mondo. Bene, signor Marinello, la sua conversazione è stata utile e anche simpatica, veramente. D'accordo, grazie. La ringraziamo e le diamo appuntamento alla prossima. Al prossimo giro. Magari che ho scritto altri racconti nel frattempo, sì, e magari avrò materia. Comunque noi ci sentiamo, senz'altro, signor Marinello. La ringraziamo tantissimo, è sempre piacevole stare con lei. D'accordo, grazie. E alla prossima volta. Arrivederci di nuovo, grazie. Alla prossima. Bene, ci ringraziamo il signor Marinello e andiamo con la quarta canzone, che è cantata da Massimo Ranieri e si intitola L'amore è un attimo. Ciao. Perdono amore mio, stasera scrivo a te l'ultima lettera. Ne ho strappate mille, sai, perché ti lascerò, ma non so dirtelo. Mai dicevi nascerà. Chi una lacrima, addio vedrai, le ferite si chiudono. Già non mi difendo più dalla malinconia, il mio solo amico qui è questo treno che va verso casa mia. Mai dicevi nascerà, chi dividerci potrà. Eccoci di nuovo in studio per l'ultima tranche della nostra trasmissione e concluderemo con diciamo un piccolo spazio in memoria del nostro amico Bruno Lorenzon nel decennale della scomparsa. Bruno Lorenzon, che era un cantore dell'epopea contadina, dal libro A piede scalzi, Il sapere dei nonni, Piazza Editore. Diciamo è un piccolo contributo. Voi sapete che è appena stata inaugurata, diciamo, la grande kermesse dell'Expo milanese, Nutrire il pianeta, energie per la vita, e noi vogliamo dare un piccolo contributo con un racconto di questi di epoca contadina, quel che non soffega ingrassa, quindi siamo proprio in carattere. A proposito di roditori, era spesso presente nelle aie e nelle stalle il porcellino d'India o cavia, simpatico animaletto tuttora esistente allo stato selvatico in Perù, che fu addomesticato in epoca precolombiana dagli Incas e fu introdotto in Europa nel secolo XVI. Esso è detto anche maialino o porcellino d'India per i suoi pregi gastronomici, anche se oggi viene allevato quasi esclusivamente per essere utilizzato come animale da laboratorio. Presso le abitazioni rurali veniva lasciato libero di scorrazzare nei recinti e nell'aia. Si riteneva che la sua presenza servisse a tenere lontani i topi. Quanto a questi mal sopportati animaletti, essi da sempre costituiscono un cruccio per i coltivatori e non soltanto per loro, perché frequentano volentieri anche gli ambienti cittadini ed anzi, specialmente in passato, a fronte della precarietà del sistema fognario e l'accessibilità delle abitazioni, proprio nelle città provocavano i danni più gravi. Storicamente i topi si sono resi responsabili della diffusione della peste e di altre malattie contagiose, restando alla loro nocività essa si manifesta specialmente nella distruzione delle derrate alimentari. Ovviamente i sorsi va in dove che se formaio, ma sotto questo aspetto subivano la concorrenza di rapinatori a due zampe. I contadini, già soggetti alle angherie dei paroni, sostenevano infatti che rose capì il fator che il sorso. Un altro inquilino della campagna, mentre meno conosciuto a causa della sua riservatezza, è il riccio. Questo insettivoro pacifista e poco socievole sa bene come difendersi dai predatori. Ha il dorso e i fianchi ricoperti da aculei lunghi qualche centimetro e in caso di pericolo si avvolge a palla sottraendo al nemico le parti vulnerabili del suo corpo. Per questa caratteristica di una persona dal carattere spigoloso e inavvicinabile si dice che è esustoso come un risso. Da noi lo chiamiamo anche risso porseto, la versione dialettale dell'altra denominazione porco spino, con riferimento al maiale per la solita ragione che le sue carni commestibili erano considerate una ghiottoneria. In senso traslato, di chi ha i capelli arruffati e irti, si usa dire è che è il parro un risso porseto. Il riccio vive nei boschi, ma è comune nelle nostre campagne. ha abitudini crepuscolari o notturne, però l'inverno lo passa in letargo dentro tane che scava nel terreno ed è utile all'agricoltura perché si ciba di larve, frutta, invertebrati, ma anche di insetti nocivi alle coltivazioni ed è soprattutto formidabile nemico delle vipere. Quando la fame era più imperiosa di oggi e le bocche da sfamare, specialmente in campagna, erano tante, la gente era meno schizzinosa. L'importante era mettere qualcosa nello stomaco, non tanto per soddisfare esigenze di palato, ma per ragioni di sopravvivenza, perché sacco vodo non sta in piè e in fondo quel che non soffega ingrassa. Per questo motivo i nostri nonni mangiavano cose che a noi oggi guarderemmo con diffidenza ed apprezzavano anche animali che oggi ci ripugna considerare commestibili, come per l'appunto i porcellini d'India. D'altra parte la propensione a cibarsene dipende dall'evoluzione culturale e non di rado da prevenzioni scarsamente giustificate dalla dietetica, un po' come avviene per il divieto di toccare le vacche in India o di mangiare il maiale nei paesi musulmani. Per ragioni inverse, in alcuni paesi orientali si fa uso in cucina di alcune specie di cani, mentre comunemente ci si ciba di insetti, cavallette, larve, eccetera, che esulano dalle nostre abitudini alimentari. Contribuivano tuttavia alla dieta dei nostri contadini, ma anche di chi viveva nelle borgate, sciosi e sciosee, lumache e chiocciole, bogoi e rane. Per quanto riguarda le chiocciole c'è da fare una precisazione, perché un conto sono i sciosi e un conto i bogoi. E non c'è univocità fra il dialetto dei veneziani e quello dell'entroterra. Se infatti chiocciola e lumaca possono essere ritenuti sinonimi e pertanto tradotti come sciosi, mentre le lumache senza guscio sono le imeghe, si chiamano propriamente bogoi o bovoi le chioccioline dal guscio striato che si consumano bollite e condite con aglio e olio. È usanza tuttora viva nelle manifestazioni paesane mangiare bogoetti, aglio e olio che un tempo venivano serviti entro cartocci o su larghe foglie di platano. In alcune località del Trevisano e del Bellunese la sagra dei sciosi o dei scios è un appuntamento rituale dell'estate. E veniamo alle rane, i cui pregi gastronomici sono noti ai buongustai quanto il pronostico che prevede quando che rane canta e ciama piova. Il che si verifica abbastanza spesso per la semplice ragione che questi comuni anfibi si destano dal letargo invernale in primavera, stagione capricciosa sotto il profilo meteorologico. Le rane si prendevano qua spunciarioea cercandole lungo i fossati e sulla riva, preferibilmente di notte, con l'ausilio del ciaro a carburo. La loro vita è insidiata, oltre che dall'uomo, dalle bisce d'acqua e bisse ranere, da molti uccelli acquatici e dai rapaci, ma possono consolarsi di un'esistenza letteralmente intrisa di fango con una citazione letteraria di tutto rispetto. Già nel V secolo a.C. in Grecia si rappresentava un poemetto eroicomico intitolato La Batracomiomachia, significa lotta fra rane e i topi, attribuito, senza fondamento, ad Omero, che fu tradotto dal nostro Giacomo Leopardi. Il rospo suo parente non viene ricercato per fini alimentari, tutta più qualche principessa, vincendo il naturale ribrezzo, arriva a baciarlo con la speranza di vederlo trasformarsi in principe azzurro, secondo le straordinarie facoltà offerte dal paese delle fiabe. In genere però, per un uomo essere paragonato a un rospo non è lusinghiero, ma va riconosciuto al povero Batrace almeno il merito di una previsione meteorologica. Co canta il rospo e il tempo se fa fosco. Però bello, comunque sono buone, sono le rane fritte, sai? decisamente. Pensa, ma che... per dire che come diciamo questa pittura, diciamo, gastronomica, a me sembra una cosa decisamente, come dire, che richiama epoche antiche, richiama la sapienza di un tempo, richiama anni che magari erano molto più magri e miseri, difatti, ti dicevo, però dove vigeva così il senso della sopravvivenza, della sussidiarietà, eccetera eccetera. A cena nel Mantovano negli anni 50 mangiavano polenta e rane. Esattamente. Perché... Bene, allora noi passiamo dalla bassa cucina, passiamo alla storia de che altri. Ecco, noi cerchiamo così quasi ogni volta di dare questa una lettura, diciamo, di qualche poesia che così abbiamo... al di là delle, in lingua straniera, diciamo senza pretese filologiche, okay, che al di là delle barriere linguistiche ci fa capire che invece non ci sono barriere per i sentimenti. I sentimenti sono universali e quindi non... Sia che siano letti in inglese, in italiano... Assolutamente. Ecco. E questa volta andiamo al grande Johann Wolfgang Goethe, Conosci tu il paese dove fioriscono i limoni? Del 1795. Questo è un breve canto contenuto nel romanzo di formazione Gli anni di apprendistato di Wilhelm Meister. Viene fatto pronunciare da Goethe a Mignon, o Mignon si direbbe in tedesco, la ragazzina che Wilhelm incontra in un gruppo di danzatori di strada e decide di prendere sotto la sua protezione. Mignon, di origini italiane, ricorda con nostalgia il suo paese e diventa personificazione del desiderio del sud. Kennst du das Land, wo die Zitronen blühen? Im dunklen Laub die Goldorangen glühen. Ein sanfter Wind vom blauen Himmel weht. Die Myrte still und hoch der Lorbeer steht. Kennst du es wohl? Dahin, dahin möchte ich mit dir, o mein Geliebter, ziehen. Kennst du das Haus? Auf Säulen ruht sein Dach, es glänzt der Saal, es schimmert das Gemach. Und Marmorbilder stehen und sehen mich an. Was hat man dir, du armes Kind, getan? Kennst du es wohl? Dahin, dahin möchte ich mit dir um ein Beschützter ziehen. Kennst du den Berg und seinem Wolkensteck, das Maultier sucht im Nebel seinen Weg, in Höhlen wohnt der Drachen alten Brut, es stürzt des Fels und über ihn die Flut. Kennst du ihn wohl? Dahin, dahin geht unser Weg, o Vater, lass uns ziehen. Bene. Insomma, il nostro Antonio è un poliglotta. Ma. Sì, che io conosco un po' il francese, ma... Allora, adesso leggiamo la traduzione italiana. Conosci tu il paese dove fioriscono i limoni? Brillano tra le foglie cupe le arance d'oro. Una brezza lieve dal cielo azzurro spira. Il mirto è immobile, alto è l'alloro. Lo conosci tu? Laggiù, laggiù. Oh, amato mio, con te vorrei andare. Conosci tu la casa? Sulle colline il tetto posa. La grande sala splende, scintillano le stanze. Alte mi guardano le marmoree effigi. Che ti hanno fatto, oh mia povera bambina? La conosci tu? Laggiù, laggiù. Oh mio protettore, con te vorrei andare. Conosci tu il monte e l'impervio sentiero? Il mulo nella nebbia cerca la sua strada. Nelle grotte s'annida l'antica stirpe dei draghi. La roccia precipita e sopra lei l'ondata. Lo conosci? Laggiù, laggiù, porta la nostra strada. Andiamo, oh padre mio. La traduzione è di Castellani. E quindi è una grande emozione che questa, la poesia dice sempre un sacco di cose che naturalmente le parole non riescono in genere. La bella poesia. A trasmettere. Sì. E noi non abbiamo altro da fare che ringraziare le ascoltatrici e gli ascoltatori per la loro pazienza e sperare ancora in una prossima volta di avere ancora la loro predilezione. Comunque salutiamo un saluto particolare a Emilio Gallina. Naturalmente. Ecco. Allora, come sempre, vi diamo appuntamento alla prossima e vi dico ciao ciao. Avete ascoltato? Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. Questo programma lo puoi riascoltare su bluradioveneto.it.